Delio Tessa, El Gat del Sur Pinin. Pensa ed opra, guarda e sculta, tan se viv e tan se impara. Mi quan nasi un'altra volta, nasi un gat de Purtinara. Per esempio, in Rugabella, nasi il gat del Sur Pinin. Scartusei de Curadela, pulpa e fideg, beretin del patron per durmixura, pisurnit del post di sna, tiradre finché ven l'ora, de sarà il purtun destra. Nan quel Cristun cavaec con quel gran regui che fa, che, per solet, nul galbec de futai clienti in ca. Nanche il Sur Pinin, quell'om che in articul vegiaria, tel paregi ai prei del dom, e dalla purtineria alla curt granda, ai curtin, ben d'avans de quella megna del patron, si inquilin, granda mis di gat, el regna. Ne a custu, nu manc, ne al denti, quanto a cu, nul gestendre, stugatun. Per quel che senti, oh, chi è de fureste che me guarden, quel ciuchinta casù, quel ciocca mai, quel ves lì sul tavolin, semper lì, quel meves mai. Che i magut l'han stremi su, nel va più fuori de ca, nanca il mugna. Quanta lui, mi lu mai sentì mugna, e quel niente. Quel vero niente. Lui per lui, sera e mattina, niente il fa. Capiset? Niente. Proprio un niente vetturina. Oh, riti! De quan la frida, la ta spaventa la pila. Ah, oh, che vita desquisita, dolorosa. Dila, dila. Es per adesso, riti, le tard. Ma per st'altra volta impara, tegna ment, darem sui cart per vesgat de Purtinara. El Gat del Sur Pinin, scritto da Delio Tessa, in pubblico dominio. Interpretazione di Annibale Covini Gerolamo. Creative Commons 4.0 International.